Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Circa 20 giorni fa sono andata in Spagna insieme a Leopoldo. Dopo qualche giorno sono arrivati in Spagna a bordo di una Mercedes di colore blu scuro o nero altri due italiani che io non conoscevo. Questi due sono della provincia di Napoli. Tutti e due commerciavano in frutta. Dicevano che dovevano caricare la frutta, pere e mele, e che se ci stava qualcosa loro la potevano portare. Ho sentito che dovevano caricare 7 kg di sostanze stupefacenti di tipo cocaina. La droga doveva essere caricata su di un camion, che però non so di chi fosse la proprietà. Droga insieme a mele e pere in viaggio dalla Spagna verso il sud Italia. Era il febbraio 2003 quando la convivente di un boss, arrestata insieme al suo uomo, cominciava a raccontare gli affari della camorra nella penisola iberica. Dalla Colombia alla Campania, passando per la Spagna, questa la rotta dell'oro bianco della malavita vesuviana che ha fatto di Barcellona, Madrid, Malaga, come pure di centri meno importanti, la sua nuova frontiera di affari. Allungando le mani, grazie ai soldi della droga, su alberghi, centri commerciali, discoteche. Una volta, con la cocaina trattata, avevano plasmato anche una specie di maschera artigianale, tipo quelle fatte in Venezuela per i turisti, per cercare di agevolarne il tragitto da Madrid a Pompei. Ma oltre che tappa intermedia tra il Sud America e il Sud Italia, la penisola iberica è anche rifugio dei latitanti. L'ultimo, Salvatore Zazzo, il presunto reggente dello storico clan dei Mazzarella, l'hanno arrestato a Barcellona insieme alla Guardia Civile Spagnola e ai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. A guidarli il colonnello Giancarlo Scafuri. Salvatore Zazzo, classe 56, è stato catturato in Spagna, a Barcellona, nel pieno centro di Barcellona, alle ore 20:30 circa, il giorno 17 gennaio del 2009. Zazzo Salvatore è sicuramente capo dell'omonimo clan zona di Fuorigrotta di Napoli e è considerato al momento il reggente del clan Mazzarella, un clan importantissimo, anche abbastanza famoso alle cronache, soprattutto quelle più recenti, va bene, per la guerra che c'è tra i Mazzarella e il clan Sarno qui a Napoli. Grosso trafficante di sostanze stupefacenti, ma ad altissimi livelli, da sempre trafficante di sostanze stupefacenti, addirittura indicato da collaboratori di giustizia, chiaramente dalle risultanze investigative, come colui il quale che riesce a commercializzare più di 500 kg di cocaina l'anno, quindi in direzione dell'area campana, Napoli, provincia ed altre province di Napoli. Zazzo Salvatore, come le dicevo prima, è stato preso nel centro storico di Barcellona, a 100 metri dall'ingresso della Sagrada Famiglia. Mi pare che abbia detto anche qualcosa tipo "dove ho sbagliato". Diciamo che sia Zazzo, ma così anche come gli altri latitanti che sono stati presi ultimamente, non riusciva a capire effettivamente dove potesse aver sbagliato. Lui era stato colpito recentemente, nel novembre del 2008, da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Napoli. Si era sottratto alla cattura e quindi si era rifugiato in Spagna. Lui in Spagna era conosciuto, si muoveva bene ed effettivamente aveva una base logistica e chiaramente al vaglio adesso degli inquirenti per gli ulteriori sviluppi. In Spagna, ecco, lei diceva, era molto conosciuto. Che cosa faceva? Ecco, qual era il suo entourage? L'entourage è chiaramente sempre nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti. La Spagna oggi rappresenta in effetti il crocevia europeo delle attività correlate al traffico di sostanze stupefacenti, grazie soprattutto anche alla presenza dei cartelli, degli appartenenti ai cartelli sudamericani, che effettivamente sono stabili in Spagna. Quindi oggi possiamo dire che ci sono effettivamente delle vere e proprie basi logistiche di varie organizzazioni criminali. Noi chiaramente stiamo facendo riferimento alla camorra in questo caso, va bene, che sono dedicate al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È chiaro che queste basi logistiche per la commercializzazione dello stupefacente costituiscono ovviamente una rete abbastanza naturale per non soltanto trascorrere una latitanza in Spagna, ma chiaramente anche per svolgere quella che è l'attività criminale, che è il traffico, come dicevo prima, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riconducibile soprattutto alla cocaina e all'hashish. Ecco, quindi la Spagna come il punto d'approdo della droga che arriva dal Sud America e che poi è diretta ai mercati europei, compresa l'Italia. La malavita italiana, la camorra nello specifico, ma anche le altre, per quanto è possibile sapere, quanto sono presenti sul mercato spagnolo e, diciamo, sono predominanti oppure in qualche modo devono dividere questo punto intermedio con altre malavite organizzate, se è possibile in qualche modo ricostruirlo questo? Sicuramente la camorra costituisce, numericamente parlando e proprio per diciamo riscontri oggettivi delle attività investigative, costituisce un crocevia importantissimo, come dicevo prima, per il traffico di sostanze internazionali di stupefacenti, però anche le altre organizzazioni criminali, mi consta che effettivamente sono solite avvalersi del passaggio Spagna proprio per la commercializzazione dello stupefacente. Ciò non toglie che la Spagna non è adesso diventato l'unico paese europeo per il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ci sono altri paesi, ci sono altre rotte non meno importanti. La camorra, diciamo, più delle altre organizzazioni criminali in Italia, ha scelto la Spagna proprio per il traffico degli stupefacenti. Che figura è l'ultimo, ecco, arrestato, l'ultimo latitante arrestato, ossia Zazzo, ma anche quelli che avete arrestato prima di lui? Cioè, è possibile in qualche modo tratteggiarne abitudini, i loro investimenti, i loro affari? Noi lavoriamo sull'organizzazione criminale e automaticamente lavoriamo anche sul latitante. Per quanto riguarda Zazzo, come le dicevo prima, era diventato un po' il punto di riferimento non soltanto per l'organizzazione alla quale lui appartiene, possiamo dire, ancora tutt'oggi, quindi Mazzarella e aree geografiche napoletane nello specifico, ma lui in ondata riusciva a gestire il traffico di sostanze stupefacenti anche in direzione di altri clan della zona di Napoli, della provincia di Napoli, quindi sicuramente un personaggio di grandissimo spessore, di elevatissimo spessore, così come anche testimoniato dalle numerose attività investigative anche pregresse avvenute negli anni scorsi, negli anni precedenti, e così poi come confermano anche i collaboratori di giustizia. Zazzo sicuramente in possesso di una grandissima disponibilità economica e ancora al vaglio degli inquirenti per stabilire qual era il suo concreto e reale patrimonio sia in Italia che in Spagna, che comunque le posso già preannunciare che ci sono degli ottimi sviluppi, quindi riconducibili anche all'acquisto di immobili, di attività commerciali. Ci faccia degli esempi. So che ad esempio tra i suoi investimenti c'erano anche delle discoteche. Sì, a noi al momento risulta anche questo. Di sicuro quindi un reinvestimento dei soldi provenienti dalla droga, soprattutto mi sembra di capire nell'attività edilizia, giusto? Oserei dire proprio la grossa disponibilità di denaro favorisce l'acquisto per, in questo caso per Zazzo, di attività commerciali. Quindi insomma la discoteca può essere il grosso centro commerciale, ecco, non un grosso immobile, quindi riciclare il denaro provento dall'attività illecita nell'acquisto appunto di immobili, ma soprattutto chiaramente nell'acquisto di attività commerciali che nel tempo possono dare anche una garanzia di natura economica al capo clan e quindi a tutti gli affiliati. E quindi dei nuovi introiti di denaro. Tutto questo, ecco, avveniva in Spagna o anche altrove? Al momento le risultanze ci portano soltanto in Spagna. In Spagna prevalentemente a Barcellona o anche in altre città? No, anche in altre città. Quindi in qualche modo è esatto dire, come pur alcuni, diciamo, analisti hanno detto, che la camorra ha in qualche modo una propria, chiamiamola, base nelle principali città spagnole? Ma io non oserei dire soltanto nelle principali città spagnole, anche perché insomma I vari latitanti che sono stati presi nell'ultimo periodo, ecco, mi riferisco soprattutto all'anno 2008 e chiaramente questo qui del 2009, dal resto di Zazzo, ci portano anche in altre città importanti spagnole, in varie zone appunto della Spagna. Diciamo che la Spagna tutta costituisce base logistica sicuramente per la camorra. Oltre Zazzo, su Barcellona, noi registriamo l'arresto di un altro grande latitante, che è appunto l'arresto di Laurenti Raffaele. Noi l'arrestiamo con precisione a Barcellona, tra l'altro per una coincidenza ritengo non casuale, proprio nei pressi del posto dove abbiamo effettivamente rintracciato Zazzo. Lo arrestiamo a Barcellona il 9 settembre del 2008, al grandissimo esponente, importantissimo esponente del clan Frizziero, un altro clan storicamente potente qui su Napoli. Non è un caso che effettivamente lo prendiamo a Barcellona dopo sei mesi di latitanza. Clan Frizziero, stiamo parlando della zona Mergellina Torretta di Napoli. Storielle. Storiacce. A Madrid poi me la vedo io. Quelli ti danno un numero, che poi me lo dai, che io mi vado a prendere questi soldi. Quello scemo, con l'aereo, non vuole venire. Si mette paura. Quello ci mette 2 ore l'aereo. E noi ci dobbiamo mettere 18 ore con la macchina. A volte, anche senza riuscire a superare la paura di volare, come conferma questa conversazione intercettata, O Sistema, i boss campani l'hanno progressivamente esportato anche in Spagna. La penisola iberica è diventata così, soprattutto per investimenti e riciclaggi, la nuova succursale delle ormai sature e sempre più controllate terre di Gomorra. I primi a stabilizzarsi tra Madrid e Barcellona furono i seguaci dei cosiddetti scissionisti della faida di Scampia, seguiti da altri con una presenza sempre più profonda. Così l'ultimo catturato lì, Zazzo, clan Mazzarelli, aveva comprato 3 discoteche, alberghi, centri commerciali e lussuose dimore, come ci racconta il colonnello dei Carabinieri di Napoli, Gianfranco Scafuri. Come mai, ad un certo punto e quando, la camorra ha scoperto la Spagna? La Spagna è sicuramente un obiettivo strategico, sempre come base logistica per la camorra, ma stiamo parlando già dal 2000, quindi non vado oltre, però già lì abbiamo oggettivamente dei segnali molto importanti. Mi riferisco a una guerra che c'è stata, si è verificata qui a Napoli, la guerra appunto tra il clan di Lauro e gli scissionisti, stiamo parlando appunto del 2003-2004 come periodo storico di riferimento, e già lì la Spagna emerge come paese importantissimo per la camorra. Nel particolare la guerra che appunto ha insanguinato in quegli anni la città di Napoli tra i due clan, il clan di Lauro e il clan degli scissionisti, ha visto a un certo punto l'allontanamento di uno dei personaggi più importanti dalla scena, quindi stiamo parlando di Amare Raffaele, che era un esponente di spicco dell'omonimo clan, che si rifugiava in Spagna insieme ad altri membri del suo sottogruppo, i cosiddetti scissionisti. Infatti per questo poi vengono chiamati gli spagnoli. Quindi a un certo momento, quando ancora non era chiaro l'esito della guerra tra questi due gruppi, Amato Raffaele sceglie appunto di andare in Spagna, di passare parte del suo tempo in Spagna, finché poi non avremo l'esito di questa guerra, che poi tra l'altro vede vincenti gli scissionisti su quasi tutto il territorio napoletano. Quindi la linea degli investimenti che passano anche attraverso la Spagna si è rivelata essere, anche da un punto di vista finanziario oltre che militare, quella predominante. Sicuramente, ma questo sempre riconducibile al traffico di sostanze stupefacenti. Effettivamente la camorra, i clan napoletani trafficano grandissime, enormi quantità di sostanze stupefacenti, e la Spagna risulta, come le ho accennato prima, il crocevia per queste attività. Certo. Ecco, è possibile in qualche modo avere una stima di quanti secondo voi possano essere gli affiliati, gli uomini vicini ai vari clan della Camorra e che possano in questo momento o essere passati o trovarsi nella penisola iberica? No. Quando vivono all'estero, che condotta hanno i vari boss della Camorra? Vediamo che in genere quando sono nei loro territori, diciamo, di origine, hanno atteggiamenti di spavalderie. C'è anche una sorta di cliché, diciamo, di vita, no? Del camorrista. Quando vivono all'estero, il loro tenore di vita, le loro case, le loro abitudini, è possibile in qualche modo raccontare come siano? In Spagna loro vivono in un modo abbastanza normale, quindi conducono una vita assolutamente normalissima, girano per le vie cittadine in modo molto naturale. È chiaro che poi in base alla disponibilità economica del capo, del latitante di riferimento, conducono una vita economica, una vita privata più o meno agiata. Questo, per esempio, lei mi fa ricordare l'arresto di Bosti Patrizio, tra l'altro inserito nell'elenco dei 30 latitanti più importanti, boss capoclan di Alleanza di Secondigliano, che è stato arrestato nell'agosto del 2008 e proprio Bosti effettivamente aveva la disponibilità di grosse risorse economiche e quindi viaggiava a bordo di macchine di lusso, conduceva un tenore di vita sicuramente superiore rispetto alla norma. Però se facciamo riferimento anche alle ultime catture, quella che è avvenuta il 16 dicembre del 2008 di Pesce Paolo e quella di Assegnati Marco, stiamo parlando comunque di tenore di vita normalissimo. Noi li abbiamo presi per strada, Assegnati in modo particolare risiedeva all'interno di una villetta, però Pesce Paolo effettivamente non l'abbiamo preso mentre girava per le strade cittadine. Quindi diciamo che un po' tendenzialmente cercano, e questo in qualche modo viene fuori anche dalle loro conversazioni, cercano di non dare troppo nell'occhio. Sì, sicuramente, adesso ad eccezione di Bossi, che effettivamente conduceva un tenore di vita un po' particolare, almeno dalle ultime risultanze investigative, insomma il tenore di vita mi sembra normalissimo, senza dare nell'occhio, certo. È vero che tempo fa Di Lauro, non credo Paolo, per cercare di convincere i sudamericani a instaurare con loro un rapporto di traffico e di droga, aveva lasciato un suo affiliato come pegno, come ostaggio. Sì, c'è stato, sì, è così. A parte, ecco, questo caso che risale, comunque stiamo parlando del 2002-2003, quindi è una cosa anche abbastanza datata nel tempo. Situazioni analoghe di personaggi di spicco della criminalità lasciati in ostaggio, stiamo parlando sempre di Camorra, delle organizzazioni criminali sudamericane, effettivamente non ne registriamo. Nel momento in cui questi boss della Camorra vivono all'estero, che tipo di rapporti conservano con la città di partenza, quindi con Napoli, quindi con chi è rimasto in città? Sicuramente un rapporto molto stretto, anche perché i personaggi arrestati sono personaggi di primissimo ordine, quindi riescono a comunicare in varie forme con gli affiliati dello stesso clan e quindi a distribuire, a dare direttive in merito all'attività criminale del clan. Quindi i modi per comunicare sono tantissimi, sono molteplici. Ci faccia degli esempi. Sì, sicuramente quello poco usato è il telefono, perché è un momento molto semplice per l'individuazione e la localizzazione. Quindi utilizzano sicuramente un sistema di appoggi sul territorio spagnolo, quindi su affiliati sicuramente italiani e anche spagnoli in alcune circostanze, per comunicare indirettamente, ma mai direttamente, e quindi dare gli ordini dall'estero direttamente al clan di appartenenza qui in Italia, in particolare su Napoli e provincia. Quindi materialmente proprio degli altri delle persone che materialmente vengono in Italia a portare dei messaggi? Sì, ma non soltanto si verifica effettivamente l'incontro, chiaramente in località a noi sconosciute, sul personaggi latitante e affiliati allo stesso clan, ma la cosa chiaramente è verosimile, ma ci sono anche altre forme di comunicazione indiretta, con personaggi casomai incensurati, per noi sconosciuti dall'attenzione delle forze di polizia, che hanno la possibilità poi sul territorio italiano di estendere le comunicazioni dei direttivi e del latitante del capoclan. Quindi proprio degli ambasciatori, nel senso diciamo classico, diciamo, del termine. Certo. Lei ha avuto modo di lavorare e di occuparsi anche di altri tipi di criminalità organizzata italiana, e da sempre si è detto che quella che storicamente aveva il monopolio dei rapporti con i narcotrafficanti colombiani era l'Ndrangheta. Non è più così? Convivono, e che tipologia, anche che differenze, diciamo, se è possibile in qualche modo diciamo tracciarle, le differenze esistenti tra i rapporti che la Camorra e l'Ndrangheta hanno con i fornitori sudamericani, cioè ce ne sono diversi che riforniscono gli uni o gli altri, ecco, come sono? È possibile in qualche modo fare un paragone? Sì, sicuramente ogni organizzazione criminale, tra queste lei ha citato l'Ndrangheta, ha citato la Camorra, io metto anche Cosa Nostra siciliana, sicuramente ogni organizzazione criminale ha dei propri punti di riferimento che raramente possono coincidere con i punti di riferimento delle altre organizzazioni criminali. Con questo si è verificato in passato attività pregresse, attività investite pregresse, che effettivamente ci sono dei momenti di convergenza, soprattutto nel contatto, nei contatti con i cartelli sudamericani. Però possiamo dire che ogni organizzazione, ogni gruppo criminale mantiene i propri contatti diretti con le organizzazioni sudamericane. Quindi parliamo di alberghi, ristoranti, centri turistici, di cosa? Sì, parliamo anche di alberghi, ristoranti e centri turistici. È proprio il tipo di investimento che effettivamente è il più comodo, trattandosi di investimenti fatti all'estero, per poter effettivamente svolgere un'azione di riciclaggio che sfugge a quella che è la normativa italiana.